Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento va slitta fino al 9 gennaio del 2005. Buona giornata a tutti. Dovrebbe esserci ancora la replica questo mercoledì notte dopo le notizie, un pochino dopo, non è che la diano proprio subito, e che a tutti voi migliori auguri per superare indenni i festeggiamenti del solstizio d'inverno.